sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Fiducia al voto anche i radicali, fuori dall'aula, a rischio il numero legale in aula. Scajola vota sì, il PDL attacca Fini, si dimetta. Indignati in piazza a Roma, corteo a Milano tra le tensioni. Standard & Poor's declassa la Spagna, nuovi timori in Europa. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Una fiducia sul filo dei numeri, quella che si sta votando in questi minuti alla Camera. Nulla appare scontato, almeno ad ora. La maggioranza in aula sta votando, l'opposizione è ancora fuori e deciderà solo all'ultimo se esprimere il voto. Sentiamo cosa sta succedendo in aula alla Camera. Cicu. È ripresa dunque la seconda chiama e noi andiamo a Montecitorio a farci raccontare cosa sta succedendo e a contare con Elisabetta Fiorito. Sì, Anna, ti devo correggere, è in effetti invece in corso ancora la prima chiama qui alla Camera. L'opposizione ancora non vota, ma intanto è conta dei voti. Luciano Sardelli conferma che non parteciperà al voto di fiducia anche dopo l'incontro con Silvio Berlusconi proprio qui a Montecitorio. E anche Santo Versace, corteggiatissimo dalla maggioranza, ha parlato anche con il guardasigilli Francesco Nitto Palma, conferma di non votare la fiducia. Applauso invece in aula al voto del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che dice: non importa se non c'è la maggioranza assoluta, basta che vinciamo, sono sicuro che stasera il governo ci sarà. Claudio Scajola voterà la fiducia, ma non lo faranno gli scaglioleani Fabio Gava e Giuliana Destra, che saranno assenti, mentre lo stesso Scajola avverte: serve un grande cambiamento, altrimenti andiamo a sbattere. Intanto tocca al Presidente della Camera Gianfranco Fini vigilare in una seduta difficilissima, dove l'opposizione aspetterà fino all'ultimo momento un Presidente attaccato dal capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto. Sentiamo. Oggi lei, per disconoscere questo principio fondamentale della democrazia parlamentare, ha disconosciuto addirittura le sue stesse parole. E allora, Presidente Fini, le ripetiamo una valutazione politica già fatta in quest'Aula. Se lei non è nelle condizioni di fare il Presidente della Camera tenendo una posizione al di sopra delle parti, allora deve dimettersi e partecipare a tempo pieno alla lotta politica. Ma intanto è proprio sulla strategia parlamentare messa a punto dall'opposizione che si concentra la seduta di oggi. Per il momento, per quanto riguarda la maggioranza, è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Questo, dicevamo, quanto sta succedendo in aula. Fuori dall'aula resta l'opposizione, una situazione che non si era mai verificata in caso di fiducia. È così, Vincenzo Miglietta? Sì, buongiorno, è così, c'è solo un precedente all'epoca del governo Moro, ma come già anticipato le opposizioni non stanno rispondendo alla cosiddetta prima chiama, non lo faranno neanche alla seconda, aspetteranno di verificare negli ultimi istanti del voto se l'aula è il numero legale, ossia se la maggioranza è in grado di arrivare alla soglia delle 315 presenze. Qualora non lo fosse, Partito Democratico, Italia dei Valori, UDC, Futuro e Libertà resterebbero fuori per far invalidare la fiducia, evidenziando così l'incapacità del centrodestra di avere i numeri sufficienti per continuare la legislatura. Questa ipotesi non costringerebbe il governo alle dimissioni, è bene ricordarlo, ma comporterebbe riflessioni importanti per Berlusconi. Sino a pochi minuti fa c'era poi il nodo radicali, non si sapeva come si sarebbero comportati, sono invece anch'essi fuori dall'aula di Montecitorio. Per le opposizioni comunque il governo è al capolinea, lo ribadisce il capogruppo dell'Italia dei Valori, Donadi. Sentiamo. Un governo che non si è approvato il bilancio consuntivo dello Stato e che ormai ha la sfiducia di 2 italiani su 3 è un governo abusivo. Noi questo continueremo a ripetere ogni giorno e per questo anche oggi il governo avrà tutta la nostra sfiducia e quella di decine di milioni di italiani. Se non si raggiunge il quorum sui tempi per una nuova votazione deciderà Fini, dice Bersani. A sentire i funzionari della Camera si potrebbe votare nuovamente dopo un'ora o addirittura domani. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Aggiungiamo una nota tecnica, perché è arrivato nel frattempo il via libera dalla Corte dei Conti alla nuova versione del rendiconto dello Stato, che in caso di fiducia dovrà essere votato. Naturalmente saremo pronti a ricollegarci con Montecitorio non appena ci saranno novità. Ma intanto si aspetta il voto anche fuori dal palazzo. In piazza ci sono ancora gli indignati, anche in vista della manifestazione nazionale, o meglio internazionale, in programma domani. Manifestazioni a Roma, manifestazioni a Milano. Andiamo anche da Andrea Viali. Sì Anna, guarda, proprio pochi minuti fa circa un centinaio di indignati romani ha lasciato il presidio di Via Nazionale, dove molti di loro sono quasi tutti studenti, anche stanotte hanno passato una seconda notte in tenda e sono controllati dalle forze dell'ordine e si stanno spostando in modo pacifico sui marciapiedi, quindi senza bloccare il traffico, proprio verso Monte Citorio, dove si vota la fiducia ad un governo che, lo stanno dicendo in questi giorni, secondo loro comunque è stato già sfiduciato dal paese. Possiamo dire che questo è un nuovo assaggio, un piccolo assaggio della grande manifestazione che ci sarà domani e che dovrebbe richiamare a Roma almeno 150.000 persone del cosiddetto popolo degli indignati. Il centro della città sarà blindato nel timore di disordini e anche di questo abbiamo parlato stamattina con alcuni di questi indignati romani. Sentiamo cosa ci hanno detto. È stata una notte pacifica, come d'altronde era stata anche la notte scorsa. C'è la volontà di far mantenere questo presidio pacifico, come c'è la volontà domani di avere una piazza che manifesti il proprio dissenso nella maniera più bella possibile, quindi senza cedere a quella che è la violenza e le pratiche violente. L'intento di domani è dire cos'è la finanza, dire cos'è l'economia e dire come questa economia e questa finanza cambiano realmente le condizioni di vita di noi studenti, dei lavoratori, di come se io non ho più una borsa di studio, ho difficoltà a pagarmi i trasporti, è anche colpa di scelte che provengono dalla Banca Centrale Europea, che provengono dalle agenzie di rating e così via. Che il popolo degli indignati oggi si è fatto sentire anche a Milano, dove alcuni studenti stamattina hanno lasciato un corteo, una manifestazione, per fare irruzione nella sede di Goldman Sachs e più tardi hanno anche lanciato vernice e uova contro alcune banche sempre nel centro del capoluogo lombardo. Per ora è tutto, Anna. Grazie anche ad Andrea Viali. Fin qui dicevamo i fatti e le attese. Nel frattempo io saluto Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno. Più attesa di così, pare che insomma sia cambiato tutto nell'ultima ora. A questo punto è veramente difficile fare una previsione. E non facciamola, infatti. Stiamo a vedere e vediamo che cosa può succedere. Certo, comunque vadano le cose, è chiaro che il governo è politicamente stato colpito a morte da questa vicenda, anche se dovesse poi avere una ritirata fiducia, è chiaro che il messaggio che arriva dal Parlamento oggi è di un governo che non ha più una nervatura politica e che galleggia sul nulla in attesa dell'approdo inevitabile delle elezioni anticipate. Questo è il messaggio desolante che arriva, perché naturalmente questa l'aula situazione è davvero semivuota in questo momento. Sì, questo non significa ancora che no, certo, parla. Naturalmente anche perché tutto si gioca, l'abbiamo spiegato prima, sulle presenze in aula, esatto. Quindi basta la metà più uno dei esatto. presenti, però di certo uno scenario così non l'avevamo mai visto. Non l'avevamo mai visto, no. Devo dire che l'opposizione da questo punto di vista ha avuto un'iniziativa piuttosto brillante, perché si dimostra con questo la povertà della maggioranza in questo momento, la maggioranza che non crede in se stessa, tanto è vero che non è nemmeno in aula, sarà intorno all'aula, naturalmente alla buvette, nei vari corridoi. Ma si era chiesto all'opposizione un po' di originalità questa volta. Sì, questa volta sono stati abbastanza originali, sì, stavolta devo dire la verità, credo che siano usciti. Se fossero originali anche nella proposta politica al paese, la capacità di offrire un'alternativa credibile di governo, già sarebbe un bel passo avanti, ma non ci siamo ancora a quel punto. Stefano Folli, ti saluto qui, ma ti chiedo di restare con noi, perché naturalmente appena ci sarà l'esito del voto, un'indicazione chiara, torneremo a ricollegarci con te e seguiremo la vicenda per tutta la giornata. Grazie nel frattempo a Stefano Folli. Ma restiamo invece al tema in qualche modo elettorale, perché intanto domenica si andrà al voto in una regione italiana, si voterà in Molise. Una campagna movimentata, quella delle regionali molisane. Quattro i nomi in corsa per la presidenza della regione. Il candidato del centrodestra, Angelo Michele Iorio, governatore uscente con due mandati consecutivi alle spalle, prende le distanze da Berlusconi. Già da tempo, infatti, il nome del premier è stato eliminato dal simbolo del PDL molisano. Nemmeno il candidato del centrosinistra, Paolo Di Laura Frattura, può dirsi in sicuro vantaggio. Solo poche settimane fa la sua area politica è stata travolta dallo scandalo di Pietro. Il leader dell'Italia dei Valori ha candidato il figlio Cristiano al posto di quello scelto dal circolo di Termoli, che si è staccato dal partito, l'ex segretario IDV Tommaso Cappella. Sicuramente voteremo il centrosinistra. Speriamo che il nuovo presidente Di Laura Frattura riesca almeno, se non dico in toto, in parte a risolvere i problemi di questa piccolissima regione. Ci sono ovviamente altri candidati, c'è l'incognita Grillo. Potrebbe essere, tra virgolette, la persona un po' destabilizzante. La sensazione è proprio questa, che questo movimento possa prendere veramente dei bevuti. Oltre a Iorio c'è anche Giovan Carmine Mancini, candidato della destra, ma come ricorda Cappella è Antonio Federico del Movimento 5 Stelle la vera minaccia del centrosinistra. Il giovane grillino potrebbe togliere voti essenziali a Di Laura, una distrazione di consensi pericolosa che già in Piemonte alle scorse regionali aveva affossato il Partito Democratico, favorendo l'elezione del governatore leghista Roberto Cota. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in queste ore, in questi giorni, c'è un mondo politico in fermento, quello dei cattolici. Nessuna nostalgia del passato, nessuna intenzione di creare la DC, ma con questo spirito l'associazionismo cattolico si riunirà lunedì a Todi in un forum. Al microfono di Katia Caramelli, il presidente delle ACLI, Andrea Olivero. Sì, attendiamo un incontro che metta al centro la nostra voglia, la voglia dei cattolici italiani di partecipare in maniera attiva alla ricostruzione morale, prima ancora che economica e sociale, del nostro paese. C'è un segnale forte di convergenza del mondo cattolico e insieme anche una chiara e visibile proposta per il futuro del paese, una proposta culturale e sociale innanzitutto. Ecco, da più parti si è già detto nessun ritorno al passato, non c'è l'intenzione di creare, tra virgolette, una nuova DC. Certamente, sarebbe fuori dalla storia e anche lontano dallo spirito di queste organizzazioni, che sono organizzazioni sociali, voglio sottolinearlo, che quindi hanno già un loro compito politico autonomo, non sono e non diventeranno partiti. Però questo non vuol dire che noi non andiamo a seriamente impegnarci in politica. Vogliamo mettere di fronte al scenario attuale delle proposte, delle idee rispetto alle quali tutti devono confrontarsi se vogliono avere il sostegno dei cattolici italiani. Vogliamo essere un po' voce di un paese che non ha solo antipolitica ma anche una richiesta di buona politica. E anche un po' una richiesta quindi di maggior coinvolgimento dei laici a fronte della mediazione invece delle gerarchie ecclesiastiche con la politica. Sì, questo è certamente un passaggio importante. Cardinal Bagnasco lo ha detto molto bene nella prolusione, c'è un cambio di anche strategia che naturalmente ci vede molto lieti. Le 13:18 minuti, le notizie di oggi. Fiducia al voto, anche i radicali fuori dall'aula alla Camera, a rischio il numero legale. Scajola vota sì, il PDL attacca Fini, si dimetta. Indignati in piazza intanto a Roma, si dirigono verso Montecitorio, corteo a Milano tra le tensioni. Lener. E questo è quello che sta accadendo nell'aula di Montecitorio. È in corso ancora la prima chiama del voto di fiducia, con l'opposizione che per il momento resta fuori dall'aula e non sta votando. Questo mentre il leader della Lega Umberto Bossi ha raggiunto poco fa il premier Berlusconi nella sala del governo a Montecitorio. È in corso un colloquio tra i due, presente anche il presidente dei deputati leghisti Marco Reguzzoni. Naturalmente continueremo a seguire quel che succede. succederà. Nel frattempo le altre notizie con l'economia, perché l'agenzia di rating statunitense Standard & Poor's ha declassato in nottata la valutazione del debito sovrano della Spagna, che scende di un gradino da AA, dove si trovava fin da aprile, ad AA-. Conservato anche il giudizio di una prospettiva negativa per il paese iberico. Nel suo comunicato Standard & Poor's segnala che, malgrado la resistenza dell'economia spagnola quest'anno, ci sono rischi aumentati alle prospettive di crescita. In Europa chi sta provando a reagire è invece il Portogallo. Portoghesi, buonasera. È secco nel saluto al pubblico televisivo il primo ministro di centrodestra Pedro Paxos Coelho. E secche sono le misure che annuncia i connazionali dopo l'approvazione del bilancio 2012. Si lavorerà mezz'ora in più al giorno, il calendario delle feste sarà rivisto e comunque per chi guadagna più di 1000 euro al mese niente bonus se lavora nelle feste comandate. Basta 14esima, poche deduzioni fiscali. Misure che riguardano in gran parte i dipendenti pubblici, ma anche quelli del privato e i pensionati. E per tutti, l'IVA aumenterà dal 13 al 23%, eccetto che sugli alimentari. Non avremmo mai dovuto arrivare a tanto, ha detto il Premier, ma ormai superare l'emergenza nazionale dipende dall'impegno assoluto di tutti. Fare altrimenti del resto non si poteva. Per ricevere aiuto da FMI, BCE ed Europa, il Portogallo si era impegnato a varare questo piano di austerità, che però, secondo diversi economisti, salverà forse l'immediato, ma deprimerà ulteriormente l'economia del paese, con gravi effetti sulla disoccupazione, che è già al 12%. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Così il Portogallo. Dall'altra parte dell'oceano, a New York, oggi gli indignados di Wall Street presenteranno il loro documento programmatico in attesa della manifestazione internazionale di domani, 15 ottobre. Questa settimana si è detto che i ragazzi di Occupy Wall Street non hanno un vero e proprio programma economico. In realtà ci stanno lavorando e oggi a Wall Street, a Zuccotti Park, presenteranno la prima bozza di un documento che nella sua fase finale sarà approvato il 20 novembre. Questo documento è un programma economico che è un misto di ricette socialiste europee, il welfare dalla culla alla tomba, istruzione gratuita per tutti, di slogan di proposte populiste contro le banche, contro i super ricchi, a favore di tasse sui capital gain e così via. Poi ci sono una serie di posizioni pacifiste, scontatamente pacifiste, e anche una serie di improbabili propositi tipo fissare degli stipendi medi che loro considerano equi per tutte le categorie di lavoratori. Uno spirito universale del 68 riadattato agli anni 2000. Esattamente, con una differenza, che quello che chiedono i ragazzi di Zuccotti Park è una specie di modello socialista, socialdemocratico di tipo europeo che in Europa però abbiamo già. E tornando in Italia, la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Sono 1000 euro senza ricevuta fiscale, 1500 con ricevuta. Per i meccanici di automobili la frase è la regola, non l'eccezione. Lo confermano i dati sulle dichiarazioni dei redditi. I 43.000 meccanici in Italia hanno un giro d'affari stimato in 8 miliardi di euro circa e dichiarazioni dei redditi ridicole. Il 12% dichiara un reddito negativo. La stragrande maggioranza, il 78%, non supera i 50.000 euro lordi l'anno e solo il 3%, in pratica quasi nessuno, ammette di guadagnare oltre 100.000 euro lordi l'anno, circa 50.000 netti. Alla fine gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate negli ultimi 20 mesi hanno portato alla luce 65 milioni di euro di maggiori imposte evase. Enrico Polella dell'Agenzia. Ricordiamoci sempre che i soggetti che fanno evasione, oltre a generare un danno diffuso per la collettività e un danno per l'erario, fanno un danno specifico a quelli che sono gli operatori onesti del loro stesso settore. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Nuova Zelanda, si lotta ormai contro il tempo per la nave incagliata. Si intensificano di ora in ora gli sforzi delle squadre di soccorso neozelandesi per cercare di pompare via le oltre 1000 tonnellate di petrolio ancora nei serbatoi del portacontainer Rena, che è incagliata da mercoledì scorso sulla barriera corallina nel nord della Nuova Zelanda. Intervento indispensabile prima che si spezzi in due lo scafo, la cui forte inclinazione rende ancora più difficili le operazioni degli esperti calati da un elicottero sul ponte. La marea nera provocata dalle tonnellate di gasolio già fuoriuscite sta intanto provocando quando, come ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Nick Smith, la peggior catastrofe marittima e ambientale nella storia del paese. Parte del combustibile ha già raggiunto la costa della Baia di Plenty, nota meta turistica, riparo di balene, delfini e varie specie di uccelli marini, di cui oltre 1000 sono già morti. Ieri intanto il capitano del cargo e il suo secondo sono stati arrestati e rischiano ora fino a un anno di reclusione per navigazione pericolosa, oltre ad una multa di circa 6.000 euro. Il governo neozelandese vuole sapere, come ha dichiarato il premier John Key, perché la nave si è incagliata nella barriera corallina, che è ben indicata sulle carte nautiche e con il mare calmo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saper insegnare anche cosa e come mangiare. Partirà a novembre un corso di formazione per gli insegnanti delle scuole medie, grazie ad un progetto di Confindustria e Ministero dell'Istruzione. Il vicepresidente di Federalimentare, Cesare Ponti, al microfono di Maria Piera Ceci. Si è partito dall'età dei ragazzi delle medie perché si ritiene che la cultura dello stile di vita, che comprende l'alimentazione, è importante se si parte già dai ragazzi giovani, e quindi è importante intervenire subito in quel momento proprio per dare a loro la cultura del, non solo del cibo, ma dello stile di vita. Che immagine emerge dei ragazzi di quell'età dall'indagine annuale dell'Istat? Emerge che ci sono i ragazzi che incominciano ad avere un'alimentazione abbastanza varia e quindi una possibilità di intervenire sui vari aspetti di coordinamento dello stile di vita mediterraneo, perché sono ancora legati alla nostra cultura, e nel contempo si è visto che l'attività motoria è ancora troppo bassa e quindi bisogna incrementarla in modo che ci sia uno stile di vita più adatto. Torniamo alla Camera a sentire che succede. Vincenzo Miglietta. Sì, di nuovo buongiorno, siamo ancora in corso con la prima chiama, ricordiamo stanno rispondendo a questa prima chiama solamente i parlamentari di maggioranza, l'opposizione è tutta fuori dall'aula, in transatlantico, nel cortile, divisa anche tra i vari gruppi parlamentari. Questa è una strategia dell'opposizione per puntare a far uscire la maggioranza allo scoperto, per dimostrare che la maggioranza non ha oggi il numero legale in aula, quota questa chissà a 315 parlamentari. Quindi in questo momento si sta ancora cercando di capire se invece il centrodestra vi potrà arrivare, questione di mezz'ora e poi sapremo l'esito del voto. Grazie anche a Vincenzo Miglietta. Roberto Scaltritti in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. Naturalmente ci ricollegheremo con Montecitorio appena ci saranno novità, e comunque sicuramente con GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.